va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia, sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia, mentre giochi si scatena un'emozione. E bentrovati a tutti, buon lunedì di festa, cioè di festa, di manifestazione, diciamo così, di protesta, ecco. Il giorno in cui appunto è in corso la manifestazione, tra l'altro lo sentiremo Alessandro Canella che è lì a seguire la manifestazione. È ovvio, l'Oster è un programma sportivo, ma è un programma sportivo che guarda anche quello che accade al di fuori, e quando ci sono cose importanti ovviamente si dà un'occhiata anche a quello. Un saluto a Mingo da questa parte del vetro, dentro al salotto buono. Ormai siamo diventati il salotto buono, finalmente. Posso dire che anche la fascia sinistra è occupata dal nostro Simone. Ciao Simone, bentornato. Ma belli, ma come state? Ma come siete belli, abbronzati, tutti fighi. Lo vedono anche a casa ovviamente, guarda, dalle telecamere che ci stanno inquadrando. Una maglia stupenda, dopo stupenda. La foto racconterà, e a questo punto salutiamo anche il nostro Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Questa redazione aderisce allo sciopero generale per la Palestina nelle modalità strane con cui facciamo le cose noi, ma aderisce ovviamente, e tra poco appunto sentiremo Alessandro Canella direttamente dalla piazza, poi riprenderemo il percorso all'interno del fine settimana sportivo, però sempre un orecchio e un occhio a quello che accade in piazza ci sarà. Dopo sentiamo Alessandro Canella e iniziamo ufficialmente la trasmissione di quest'oggi. Torniamo in diretta per questa puntata particolare di Caffè e Paglia, puntata in cui appunto, come diceva Fio, anche la nostra redazione aderisce alla manifestazione a favore della Palestina per lo stop al genocidio, e anche a supporto della Sumud Flottiglia che è in viaggio, sta arrivando in zona. Adesso potremo anche seguire il tracker delle vele per capire dove è esattamente in questo momento posizionata la flottiglia appunto che sta cercando di raggiungere Gaza. E allora andiamo velocemente, buttiamoci nel mondo sportivo. È ovvio che è un po' difficile passare da grandi temi a quelli un po' più... Allora, oggi è il 22 settembre, ieri era l'ultimo giorno d'estate. Bravo. L'altro ieri c'erano 35 gradi allo stadio Renato Dallara. Se vogliamo possiamo metterlo dentro anche a questo dal punto di vista sociale, diciamo così. È vero, è stato un caldo incredibile, poi nei distinti c'è il sole praticamente completamente tutto il tempo. Tipo gli Arizzoni. Infatti il sole in realtà l'ho preso allo stadio, tu mi hai visto abbronzato, ma il sole nasce da quello. Però abbiamo il collegamento, dopo parleremo di una vittoria che è... Ecco, l'unica cosa, prima di sentire Alessandro Canella, vorrei, anche te Simone, aiutami, che con questa vittoria del Bologna al 90° si cancelli dalla memoria di Fio il rigore della Roma dato allo stesso... Quello è fatto storico, ti prego. Dobbiamo esserne ossessionati, ma esistiamo. Passiamoci sopra. E adesso ci colleghiamo con Alessandro Canella che è in piazza a seguire lo sciopero a favore della Palestina. Alessandro, ci senti? Sì, buongiorno Mingo, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, raccontaci un po' quello che vedi, quello che... Allora... Era tanto tempo che non vedevo tanta gente in piazza, ci sono Piazza Maggiore e Piazza Nettuno già completamente piene e la gente sta ancora arrivando per partecipare a questo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base per la Palestina contro il genocidio a Gaza, a sostegno della Global Sumud Flottiglia e contro l'economia di guerra. In realtà, come dire, adesso da qua a Piazza Maggiore poi partirà un corteo che andrà in via Marconi, poi via De Mille, cercherà di bloccare il traffico su via Stalingrado, qualora i cantieri non ci pensassero già loro. Sì, non è adesso, si sono posti un obiettivo di minima a Bologna in questo momento. Un obiettivo raggiungibile. Facilmente raggiungibile. e poi terminerà in piazza dell'Unità. E in realtà, appunto, prima del concentramento generale qui in Piazza Maggiore ci sono stati tanti altri concentramenti piccoli per categoria, ad esempio davanti all'ufficio scolastico regionale ci sono stati 500 docenti delle scuole superiori che protestano contro il ministro Valditara e la censura, perché non possono discutere in consiglio d'istituto una mozione contro il genocidio. Ci sono gli studenti dalla zona universitaria, c'è un presidio anche in Bolognina promosso da Platt. Insomma, la città sta rispondendo molto bene, con un'atmosfera che effettivamente non si respirava da tanto tempo quanto a presente. Una presenza importante, quindi quello che appunto ci racconti, era importante anche, insomma, dare un segnale. C'erano già state altre manifestazioni, diciamo così, nel corso della fine settimana scorso. Questo era un appuntamento molto importante. E quindi, insomma, appunto, studenti, com'è la componente? Anche i giovani hanno risposto? Sì, sì, sì, ci sono praticamente tutte le scuole, non solo da Bologna ma anche dalla provincia. A Bologna ovviamente a farla da padrona è il Minghetti, che anche l'anno scorso, insomma, ha fatto discutere di sé proprio perché nella sua occupazione aveva il tema del genocidio a Gaza. Ci sono anche studenti di Leonardo da Vinci, che se non sbaglio è di San Lazzaro, e anche di altre scuole della provincia. È una veramente una manifestazione di popolo, perché ci sono di tutte le età, dai bambini di 3 anni che i genitori hanno tenuto a casa dall'asilo fino ovviamente agli anziani, e adesso pian pianino sta già partendo il corteo perché non ci stanno tutti in Piazza Maggiore, e quindi appunto seguire. È andata via, ecco. Ti abbiamo perso per un secondo. Comunque l'idea è chiara, che in questo momento si inizia a muoversi il corteo perché c'è troppa gente. Questo è un bel segnale, ovviamente. Forse l'abbiamo perso, lo risentiremo dopo. Comunque seguirà il corteo il nostro Alessandro Canelli, e potremmo risentirlo nel corso della trasmissione, appunto per raccontare un po' quello che sta accadendo in questo momento nella nostra città. È importante anche per quelli che ascoltano, sanno che appunto fra un po' su Stalingrado non ci si muoverà. Non sarà una novità così debordante. Comunque un abbraccio a tutta la piazza, noi siamo idealmente lì. Esatto, e a questo punto rientriamo nel racconto di quello che è stato Bologna-Genova, la partita giocata sabato alle 15, appunto, a 35 gradi. Orario abbastanza infame, sabato alle 15. È più inglese, diciamo così, però non c'è quel sole lì, non c'è in Inghilterra quando giocano. Quasi mai. E quindi insomma, la situazione è comunque parte con una squadra che cui ha ultimamente spesso, diciamo, ha avuto problemi. Il Genoa è una squadra ostica che ha, diciamo così, vinto facilmente l'ultima partita di campionato, se vogliamo forse l'unica nota stonata della super stagione dell'anno scorso, no? Al finire con che era partita, tra l'altro, una cover dell'ultima di campionato di 2 stagioni fa, con il Bologna di Thiago Motta, va a immolarsi contro un Genoa già pago. Esatto. Anche egli già pago. Esatto, quindi insomma, e arriva comunque una squadra che fa capire subito che è venuta qui per bussare, perché veramente è partita tosta, e infatti sono 3 o 4 gli aboliti del primo tempo per quanto riguarda il Genoa. Bologna che sorprende con l'ennesima formazione nuova, ma questo ormai è un dato ufficiale ormai. Sì, siamo al turnover del turnover. Siamo a un certo punto. 56 partite consecutive, in cui la formazione è diversa dall'altra. Alcune sorprese, perché ad esempio Dominguez era stato fuori dai giochi in queste prime partite, invece è titolare. Dominguez è titolare, Bernardeschi in quel ruolo di sottopunta in cui si aspetta Odegaard. Benedetta la Madonna, io non ho fatto tutta sta fatica Siani per ritrovarmi Bernardeschi con la 10 del Bologna. Ok, no, ce l'ho con voi due, ce l'ho. Okay? Che invece buoni, tranquilli, oppure per Immobile, cioè. Perché? Perché è un instant team. Perché? È un instant team, però è per vincere il campionato, non per lottare per qualificati in Champions. No, Champions non ci interessa. Perché, no, dai, Bernardeschi con la 10, dai, ma perché? Che devo fare? Cioè, così è successo. Tutta questa fatica, questi anni, tutto questo dolore, tutto questo. Allora, perché? Nel prepartita della scorsa, in realtà, Vincenzo Italiano ha speso parole interessanti su Bernardeschi, dicendo: ci aspettiamo che si ricordi di essere un giocatore italiano. Italiano, campionato italiano. Una cosa degli sceneggiatori di Boris. Molto, molto Boris. Molto sì. Italiano. E in realtà si iniziano a vedere degli sprazzi di Bernardeschi impegnato in una specie di sovrapposizione continua in cui il Bologna gioca con due esterni destri a un certo punto. Sì, infatti. Uno sull'altro. Orsolini che è anche spesso, come cosa. Come i tre terzini sinistri di Gasperini dell'Atalanta. Ieri c'è stato anche un momento in cui, in particolare Orsolini, che è visivamente, cioè lo conosci, lo vedi, racconta tutto più o meno quello che succede, è come un bambino di 6 anni, cioè, una roba del genere. è trasparente. Era lì che tutte le volte diceva: ma c'è Bernardeschi qua, dove vado? Non sapeva bene dove andare. Secondo me su quello ovviamente qualcosa si può lavorare, però nei cambiamenti, diciamo così, che la squadra fa, io avevo notato nella prima partita quei 25-30 minuti in cui mi sembravano due le punte, mi sembrava a due punte, cosa che non era mai stata della scorsa stagione con Italiano, esatto. Il Bologna di Italiano non le vedeva, perché no. Immobile di fianco aveva Orsolini molto spesso parallela, poi Immobile si è infortunato praticamente subito e quella cosa lì è stata un po' rimessa invece nell'assalto finale al Genoa, e devo dire che si vedeva che l'avevano studiata dalla prima alla quarta, l'avevano un po' studiata, ci hanno lavorato, ed è, sarà un'opzione che potremmo vedere, le due punte. Allora, Thijs Dallinger non scalda i cuori dei tifosi rossoblù in questo momento, ma io vedo dei segnali interessanti dal modo in cui è entrato in campo e dal modo in cui ha fatto volume là davanti. È una partita che, se avessimo il buon cuore di riguardarci nella sua interezza, vedremo come il Bologna cambia, sia per le sostituzioni ma anche per l'atteggiamento, e a un certo punto che grande iniezione di qualità dà nei minuti che ha a disposizione Lewis Ferguson quando entra. Anche Lewis Ferguson è veramente un giocatore importante per questo Bologna, cioè riaverlo al 100% sarà uno dei passaggi fondamentali. Bello, ma prendiamo gol noi, però. Però appena va lì, prendiamo gol sulla dormita di Miranda, clamorosa, che fa un grande primo tempo e poi si ammolla lentamente. Era la prima partita di Miranda quest'anno. Subito lo stesso identico gol contro il Carpi sabato alla stessa ora. Sì. Siamo praticamente una bucata clamorosa sull'out, ma proprio grossa. E lì si ferma e quell'altro parte come un razzo, Ellerson. Fa uno scatto e tira una sassata, scalda bagno sul primo, niente male, nel dubbio non male, e c'ha quell'atto insomma in cui da lì la squadra inizia a crescere. C'erano già stati qualche segnale prima, ma la squadra inizia a crescere, cresce grazie anche a Cabiaghi. A proposito dei cambi, è sicuro che dobbiamo pensare al calcio in maniera diversa da come lo pensavamo prima, cioè gli 11 titolari non sono i più forti. Spesso. Ah no, ma nel caso spesso, di oggi sì. Con 5 sostituzioni, sì. Con la possibilità di giocarla in maniera appunto tattica da quel punto di vista lì, i titolari almeno 14-15. Oppure sono quelli che finiscono la partita, quasi quelli che finiscono la partita delle due, sono più forti degli altri. In realtà il Bologna con Cabiaghi riesce ad andare un po' meglio di Dominguez, che comunque si è impegnato tantissimo, si è impegnato molto, ci ha messo della fotta, della garra, però ogni tanto secondo me la parte cioè è piccola. Cambiaghi è già un atleta. È atleta rispetto a Dominguez. Dominguez, cioè poverino, è veramente, cioè devi essere al 125% della forma. Ma Sartori, quelli piccoletti leggeri piacciono quasi. Sì, è interessante, però sì. Insomma, potrebbe essere uno di quelli che subentra e che fa. Fa dello sparguglio, come dicono i grandi tecnici, esatto, critici di calcio, lo sparguglio. Il famoso sparguglio. Non è entrato Odgaard perché a un certo punto, quando viene tolto Bernardeschi, che secondo me nel primo tempo aveva giocato abbastanza bene, nel secondo tempo si era un po' perso, era anche ammonito, è stato uno degli primo ammonito della partita. Primo ammonito della partita. E aveva dato una bellissima palla a Castro. Castro era in fuorigioco, però Castro ha segnato il gol annullato poi per netto fuorigioco. La palla però gliel'aveva data Bernardeschi, insomma i piedi ancora sono italiani, sono educati. È ovvio che se uno pensa al lavoro che faceva Odgaard quando stava bene, è tutto un altro ruolo quello lì, e non lo può fare nessuno del Bologna. È questo che secondo me il pensiero di italiano, iniziamo a pensare alle due punte, perché o Odgaard sta bene e gioca lì, o e allora non quello fare, esatto, o non si fa, perché Fabian non ha il passo per farlo, c'hai sempre un ballottaggio, no? Adesso a tre in questo momento con Bernardeschi che si inserisce in quel luogo lì, ma nessuno fa quello che faceva Odgaard quando stava bene Odgaard. L'equilibrio nell'avere sia chi ti occupa materialmente lo spazio, che abbia capacità di inserimento dinamiche, che veda anche la porta, che erano le tre cose di quel ruolo come interpretato da Odgaard. Si può interpretare in modi molto diversi, si può fare con Dallinga che prende spazio e basta, si può interpretare con un ulteriore centrocampista di inserimento che però ha un altro rapporto con gli spazi intermedi lasciati dalla squadra avversaria. Diciamo, visto sabato, diciamo così, il Bologna a due punte, inizio a dire ma forse Castro Immobile potrebbero non essere male come tipologia di giocatore, nel senso che potrebbero giocare insieme. Poi devi vedere, perché Immobile, io così me lo ricordo, ve lo ricordate quando Immobile segnava tonnellate di gol e poi in nazionale però faceva Cilecca? Perché? Perché Immobile era abituato ad attaccare alla profondità, invece magari spesso si ritrovava soprattutto in nazionale a dover giocare più dalla Odgaard, appunto devi gestire tutta la fase offensiva, devi vedere, devi riuscire a cucirgli gli spazi ai tempi giusti, sennò Immobile, se non fa quel tipo di gioco, non funziona. Appunto, devi essere bravo tu, Vincenzo Italiano, a trovare i sistemi giusti. Se diciamo pensiamo che Italiano abbia detto sì a Immobile, cioè nel senso che vuol dire che delle idee ce le ha, nel senso che non credo, non lo sappiamo, perché spesso succede che la società prende il giocatore e l'allenatore poi si deve adattare. Dai, secondo me un giocatore con quel peso lì, l'allenatore non può non avere la sua parola, perché anche il peso di spogliatoio lui è Bernardeschi. A me, ve lo ripeto, non mi ha convinto, è proprio nell'antitesi di Sartori prendere Bernardeschi e Immobile, cioè sono proprio due corpi estranei al suo modo, più Immobile, so come dirlo, Bernardeschi in realtà è proprio lontano dalla... Bernardeschi è filologicamente giusto, perché comunque non è vecchio, è altro rispetto alla mira io di la Sartori MLS di la solito seguo, ok? Ok, io la seguo, voi no, io la MLS la seguo, ok? Se vi dico che non c'entrava nulla, cioè davvero non c'entrava nulla, poi per carità, farà 10 gol, andrà in doppia cifra, lo speriamo tutti quanti, lo speriamo tutti, però a me mi ha fatto pensare un po', magari non lo so, vediamo, non mi è piaciuta per niente questa mossa di Immobile, perché va appunto in antitesi rispetto a tutto quello di perfetto che ha fatto il Bologna negli ultimi 3 anni ormai, insomma cominciano ad essere 2-3 anni, no. Sì, vediamo, bisogna dare il tempo, vediamo. A Sartori, anche l'anno scorso dicevamo il mercato, nelle prime partite il mercato non ha dato tanto, ma era una squadra di Sartori costruita con i modelli di Sartori e tutto. Non vorrei che questa situazione, perché poi le cose succedono tra dirigenti e allenatori, poi dopo non capissi, non, la parola non detta, non accendo, non lo so, vediamo. Beh, è troppo presto. Raccontiamo i gol, del Genoa l'abbiamo già raccontato, raccontiamo i gol del Bologna, raccontiamo il primo, Camilleghi scende sulla fascia, mette una palla in mezzo, ci sono sulla stessa mattonella Castro e Dallinga, che sembrava un'operazione tempesta perfetta, sì, nel senso che è un casino lì. Mi hanno ricordato poi i gemelli Derrick, di Ollie e Benji. Quelle catapulte. Un po' catapulte. Sono arrivate e quello che guardava la porta non l'ha presa, quella che era di spalle l'ha messa dentro in un bando clamoroso. All'angolino. Un tacco all'angolino, le ali immobile. Un esterno tacco, le ali che aveva fatto una paratissima. Come del resto Skorupski, paratissima. Vero, due, gran parata. Ne aveva fatte due, una non valeva, però. Peccato quasi, perché era, quasi molto bella, perché era fuori gioco. La seconda è incredibile, quella che recupera il pallone su Colombo, credo. Però non, diciamo, non è. Quell'altra anche era difficile perché viene deviato il tiro. C'è un tiro centrale forte di Martin, mano di richiamo. Leggero deviato, alzata su quella. Anche Leali fa una grandissima parata poco prima del gol. Castro riesce a metterla in maniera veramente incredibile. Colpo di biliardo, colpo di biliardo. Colpo di biliardo. Che dimostra che insomma, oltre alla garra, garra che ovviamente si è vista in campo con delle baragonismo, ha trovato pare per i suoi denti in questo caso, però non è andato indietro, è stato lì anche muso duro. Ogni tanto andava a cercare Norton Cuffi perché gli avevano detto che era quello grosso. No, però hanno avuto poche occasioni per l'attenzone. No, diciamo. Però l'ho visto veramente attivo da questo punto di vista. Ci sono due o tre palloni due palloni in particolar modo che solo Castro può recuperare. Lanci lunghi in cui lui, come sa fare in maniera magistrale, quello nessuno, cioè è una roba innata che nessuno gli ha insegnato, secondo me lo sa fare lui, è guardare la palla, guardare il difensore, intanto dai una pacca al difensore per metterti nella posizione giusta dove arriverà la palla. Un paio di volte fa delle scelte anche che dici ma cosa sta facendo? Ah, poi vedi che gli arriva la palla proprio in quel punto. Gli attaccanti argentini sono caroni, capito? E ha già il movimento, capito, ad accompagnare quello che farà dopo. Mi piace quella parte lì di Castro che è appunto non allenabile, non è una cosa lo fai perché lo sai fare, è istintivo, è parte di istinto. Poi se ci aggiungi le altre cose può diventare un super attaccante. Intanto ha queste caratteristiche, anche per quello dico, di fianco potrebbe avere Immobile, se lui fa la fatica, lo sbattimento, se lo fa Castro, Immobile fa gol. Immobile ci mette un piattone. Fa gol. Potrebbe essere un'idea per il futuro, anche perché Immobile è infortunato per un po' e quindi non la vedremo. Chissà se vedremo ancora le due punte da linea Castro. È vero che adesso si va a Birmingham, si vola a Birmingham. Ci sarò, siamo già apparecchiando per Birmingham. Bravissimo. Siamo già stati, sappiamo già tutto, una città di cui padroneggiamo. Esatto. Sai anche il pub dove andare dopo la partita. Alcuni. Bene. Rigore per il Bologna. Il giocatore con la maglia numero 23 compie un extra movimento. Questi ragazzi che parlano nel cerchio di centrocampo guardando il nulla davanti a sé, a me fanno un po' tenerezza. Sì. La categoria degli arbitri è soggetta a delle sollecitazioni nuove che non, cioè, sì, fa, era molto, fa è molto anche, diverso, fa anche tenerezza, anche poi ne parli Cesari. E allora Lobello cosa dice? Lobello, se tu credi, cioè, che questa sia una situazione difficile, ti farei fare l'arbitro in Serie C dove c'è la vara, certo, chiamata tipo NFL, sì, che noi siamo, cioè, capito, siamo dei Trail Blazer, se noi andiamo avanti per gli altri. È un VAR a chiamata che però funziona con una telecamera, cioè la telecamera quella a faro laterale, che, cioè, ti farei vedere praticamente la stessa immagine che vedi già, e quindi non succede, c'è dello sviluppo tecnologico che è un po' è una a tempo, cos'è? Credo due a tempo. Non mi posso sbagliare, però dai, sono otto chiamate VAR, una partita può darsi durare... che sbagli magari una per tempo. Dunque, una per tempo. Ho i testimoni, io l'ho vista dalla curva. Cioè? Il rigore l'ho visto dalla curva, perché il movimento di Carboni, che... allora, da un punto di vista di forma e funzione, la palla che punta a Lukumi arriva comunque a Lukumi. Da un punto di vista di congruità del movimento, lo allarga proprio quel braccino, ragazzi. Cioè, è quella la parte che ti porta al rigore. Sul rigore deve essere il movimento congruo, non congruo. C'è tanta gnola su questa cosa. Abbiamo tutti visto rigori molto, molto meno rigori di questo, e Carboni, che era appena entrato in campo, che non è il giocatore che deve stare lì in quel momento, e a me spiace perché Mirà, secondo me, è uno che di calcio capisce, è più bello dietro che davanti, gli interpreti non li trovo così sexy come sembravano sulla carta alcuni di loro, diciamo, e però il movimento di Carboni è quello, è punibile, allarghi, allarghi e la tocchi. E quindi con quello Orsolini, che aveva fatto una delle peggiori partite dell'anno fino a quel momento, anche per incomprensione, diciamo così, tattica con Bernardeschi, e va a fare però quello che fanno i grandi giocatori, perché riuscire a segnare quel rigore che è stato dato 5 minuti dopo, 5 minuti di review, cioè, tra cuffia e tu schermo, sei lì e ti giochi la partita con quel rigore dato dopo 5 minuti, bravo lui. Bello il momento folia de con Santi Castro che prende il pallone sotto braccio, va verso il dischetto, guarda il portiere, guarda le ali, no look, passa dietro la passa Orsolini, dietro Orsolini, che l'appoggia per terra per battere. Ma sembrava dovesse batterlo Castro. Vedi, Castro comunque c'ha qualcosa di particolare per davvero. Mi piace un sacco il ragazzo. Bravo. Siamo arrivati alla pubblicità. Terza parte, no, seconda parte, sono già avanti di un quarto di Caffè e Paglia di quest'oggi, è quello dedicato alla top 5, le 5 cose che ci hanno colpito di più in questo fine settimana sportivo. Tanto abbiamo avuto, ci siamo sentiti durante la pubblicità con Alessandro Canella, alle 11.30 faremo un altro collegamento dalla piazza, almeno 30.000 persone, questo è il dato che viene lanciato dal nostro direttore, foto che mi ha mandato, adesso non si possono vedere, siamo in radio quindi non le potete vedere, mi fanno capire che insomma il numero può avvicinarsi veramente a quello, sono tante le persone che stanno sfilando come avevamo sentito prima, sono su via Marconi e la coda è ancora in Piazza Maggiore, quindi insomma di gente ce n'è in questo momento. 11.30 circa ci colleghiamo con Alessandro Canella. Ora abbiamo la top 5 che insomma ovviamente dobbiamo fare un po' più veloce del solito perché siamo un filo in ritardo. Allora, non che la giornata di Serie A non ci abbia riservato degli spunti di cui potremmo parlare per ore, e invece no, facciamo una roba compatta, condensata. Partiamo dalla partita, la minaccia per l'ordine pubblico totale, quella definitiva, devastata, giocata a mezzogiorno e mezza. Mezzogiorno. Orario infame anche quello, sì, dobbiamo dirlo, insomma, dobbiamo dirlo abbastanza. Bell'orario. Ma c'è non Gandieri, male. C'è il Giubileo Signor, come dobbiamo quindi fare? Va bene, ok. Da grandi diventiamo tutti questori di Roma, non succederà, non diventeremo neanche allenatori di una delle due compagini capitoline perché non facciamo in tempo, anche se probabilmente a un certo punto si libererà un posto, probabilmente. Spiace pensare che il nervosismo attanaglia la Lazio di Sarri, che già partiva da una condizione di grande svantaggio col mercato bloccato a tradimento, cioè l'unico che non lo sapeva alla fine era Maurizio Sarri. Prima di firmare lo gliel'hanno detto, dopo firmato è andato su Televideo a guardare le notizie della Lazio, sai come fa, tutti gli allenatori vanno su Televideo e cercano, so cos'è, 241, adesso non mi ricordo esattamente il numero, però e ha visto la notizia, mercato bloccato nella Lazio. Ci è rimasto male, uomo del Novecento, l'ho imparato dal televideo. Esatto, giustamente. Ricordiamo Cesare, un mio compaesano. Sì, a casa, all'Acquaviva, all'Acquaviva. Acquaviva, per la casa di mamma, casa di mamma. Una partita che si preannunciava non bella, con dei turnover, dei grandi assenti, un po' di rimaneggiamento, un'aria non proprio serena da nessuna delle due parti, perché la Roma di Gasperini sì era partita bene ma aveva perso dal Torino, che noi avevamo chiamato come potenziale sorpresa, noi gli abbiamo tirato, gli abbiamo davvero, povero Vanoli, gli abbiamo tirata noi, Baroni, la Lazio che invece arranchia e l'abbiamo vista prevalentemente arranchiare, essendo una partita in cui ha fatto vedere molto sarrismo. Comunque sì, sarebbe potuto accadere qualunque cosa, forse è accaduta qualunque cosa, sì, ma non quelle che si aspettavano. Beh, oddio, Pellegrini è a quarto, quinto gol in un derby, quando fa ne una fase, ecco, di più pure, cioè potrebbe essere l'uomo copertina della top 5, sicuramente quello del derby, Lorenzo Pellegrini, che se si giocassero solo derby sarebbe uno dei giocatori più forti del mondo. segna lui su un regalo impacchettato, infiocchettato da Nuño Tavares, che fu specialmente nella prima parte della scorsa stagione uno dei protagonisti in positivo della Lazio. Fece 10 gol prima di 10 assist prima di Natale. Giocatore molto da fantacalcio, soprattutto da fantacalcio, però l'anno scorso era forse una delle più grosse sorprese, no? Uscite dal mazzo. E quest'anno molto, molto meno bene. La Lazio meritava però un pareggio, sarebbe stato forse il risultato più giusto. Passiamo prima un piccolo dettaglio tecnico su questo che hai appena detto. Prendo Nuño Tavares soltanto come esempio, non è chiaro che nessuno qua ce l'ha con lui, anche perché vai la diga ce l'hai con lui, ci vuole anche coraggio. No, parliamo della figura dei terzini, degli esterni sinistri. Terzini non si usa più, esterni sinistri. Io credo che ci sia una bolla in atto gigantesca, tipo quello che copre la Premier League, che porta a rendere difficile riconoscere un esterno sinistro veramente bravo a giocare a calcio. Perché ultimamente, negli ultimi 7-8 anni, diciamo così, il ruolo del terzino è cambiato tanto, dalla regola con retropassaggio diverso, la costruzione bassa che è rinata a nuova vita e tutto. Però questo ti porta ad avere degli esterni molto molto performanti in fase offensiva. E però io mi ricordo sempre che il vecchio detto che tu, cioè, se di un difensore parli sempre bene quando vai in fase offensiva, abbiamo un problema. C'è un problema di base. Quindi questa bolla degli esterni, vedi che sono quasi tutti fortissimi, facci caso. Cioè, ogni tanto spunta fuori un esterno sinistro che spacca i culi, che ribalda tutto, poi passa un annetto, qualche mese, magari l'accorgimento tattico dell'allenatore avversario, e ti fa capire che quello invece è un giocatore forte, buono, ma con dei limiti anche grossi, che però il calcio dove è andato adesso ti copre. È come NFL, Mingo, tu che conosci bene, che è diventata molto quarterback tendenza. Cioè, una volta i quarterback non erano così protetti, una volta ai ricevitori tu li potevi pure spezzare la gamba in diretta, insomma, andava bene. Adesso qua, insomma, non si possono toccare. È un po' quel modo lì. Nuño Tavares è uno di quei giocatori lì. Tu lo vedi che spacca tutto all'inizio e dopo un po' dici, boh, a me mi sembra che manchi proprio qualche basilare. Mi piace pensare che il Bologna abbia fatto giurisprudenza quando prese dall'Inter Maia, che prendeva 3 miliardi di lire l'anno, per farlo accoccolarlo con un contrattone a Bologna. Lui, prototipo di quel giocatore dinamico che però non sa fare niente. Ragazzo, ma quello che volevo dire io, Fiori, in due parole. ragazzo talmente innamorato del pallone che sta giocando ad Altamura in questo momento. No, ma di ragazzo, continuare a fare il calciatore di lavoro. Lo salutiamo. Lo salutiamo. Ma team Altamura è sempre Serie C, mi sbaglio. È salito da, esatto. Adesso. Me lo ricordo. Sempre grazie, è risalito grazie, certo, a me. Certo. Allora, protagonista abbiamo detto Pellegrini, altri protagonisti la formazione iniziale di Sarri con Dia, che si mangia un gol clamoroso, ingiocabile, non trova spiegazione mai. Reda Belayan, ragazzo fortissimo secondo me, che è arrivato alla Lazio nel momento più sbagliato, ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare. Ma scusami Fio, se tu Lazio c'è già Rovella in quel ruolo lì, Belayan che lo compri a fare? Io lo adoro Belayan, ok, lo adoro, ma che lo prendi a fare se c'è già uno fortissimo, insomma, simile pure fisicamente, leggerini, dinamici, carognette. Lui appoggia lo scarpino in un punto delicato dell'esistenza di Manu Koné, che tra l'altro è un energumeno, e si guadagna un rosso che lascia in 10 i suoi. Da quel momento la Lazio sembra macinare il gioco perché sono nervosissimi, però ormai quella pagina di calcio. Io prendo è già un palo scritta. Al 135esimo, insomma, cioè era veramente da buttare giù lo stadio. Stava sfortunato, non era per... Cataldi a giro, stranissimo. No, che stava già, aveva già preso la rincorsa per risultare, ma ha fatto veramente tenerezza. Poi si è buttato per terra. Fatto veramente tenerezza. In realtà, siccome sta già correndo, quando si accorge che è, decide di puntare l'arbitro per dirgli che gli è stato deviato. Cioè, c'ha questa cosa affascinante. È transagonistica quella lì. E poi si butta a terra. Dopo aver provato questa piangere. Ma guarda, io avrei pianto come un disperato. Quindi figurati. Prima prova a dire, guarda, l'ha deviato. No, io avrei pianto davanti a tutti. Archiviato questo derby della capitale. Archiviato, lasciando segni indelebili sulle classifiche, soprattutto su quella della Lazio. La classifica non si guarda ancora. Dai, perché, quante volte l'abbiamo detto, dai. Però in questo momento la crisi è un po' si fa sentire, perché in quattro partite hai fatto tre punti e sono un po' pochini. Sono pochini. Ce n'è un'altra che ha fatto un punto in meno e che invece forse di crisi si potrebbe anche dire. Sì. Noi qua l'abbiamo intitolato Crisi Viola. Io in quella partita vedevo un X grande come una casa ed ero già pronto proprio in carrozza a mettermela via. Quando a un certo punto, sai, quando fai troppo mercato, succede che ti scordi quelli che hai tesserato, quelli che non hai tesserato. Addai, giocatore, devo dire, affascinante, in una fase della partita in cui di là c'era una prateria infinita, c'era Pongracic che stava già pensando... Ma non correva il Tour de France? Sì, capito, lui stava già pensando. Caso ha preso giallo. Sarò dato già il giallo per quello. Lui in quel momento stava già pensando che sotto casa doveva fare la manovra prima di parcheggiare, perché così stamattina usciva, ce l'aveva già puntata, perché doveva caricarne le cose nel baule, forse per andare a giocare a golf o per andare a comprare dei completi. Però è partita la Fiorentina benissimo. La Fiorentina è partita che sembrava volere spaccare la partita. I primi 10 minuti ha avuto 3 palle gol, uno ha fatto gol. Gol, Mandragora contro la barriera, la palla torna lì, scalda bagno di nuovo dentro. Cioè, tiro così, non li ho visti tanti. Il tiro ribattuto subito e ha tirato molto più forte il secondo tiro del primo. Il nervosismo. Gli è venuto proprio. Si spremeva. Mandragora è un ragazzo sanguigno. Infatti, sì, ha messo tutto lì. E China ha sbagliato un gol di poco. Però insomma sembrava la Fiorentina tornata tonica. C'era un abuso edilizio, mi sembra, al posto della Fiesole. c'è un mostro ecologico. Che roba che stanno facendo? Lo stadio di Firenze è brutto. È già di suo. Di suo, era la forma di D. Quindi insomma capiamo perché in quegli anni. Così. Sì, sappiamo. L'unica cosa particolari sono le scale. Bellissime. Le scale bellissime sono patrimonio di... Vabbè, la sovrintendenza della culturale ci tiene molto. Perché una scala chiocciola senza... A doppia elica, un plinto centrale, senza colonne esterne. Quindi, quella non si può tirare giù. L'ha fatta Nervi, quello della tettoia di Piazza Lucio Dalla. È una bella costruzione architettonica. Solo che in un anno hanno smontato un terzo della curva di là. Stanno facendo, è brutto pure vedersi. Stanno facendo tipo gli orologiai che mettono via ogni cosa in un sacchettino con scritto dove l'hanno trovata. È un casino, tipo Ris di Parma. Vabbè, lo stadio era brutto prima, rimarrà brutto, lo fanno quei soldi del PNRR perché Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia. La partita prende una piega curiosa perché ti aspetti che Pioli faccia giocare la Fiorentina in modo ordinato e che quindi la bruttezza del reparto avanzato in cui Piccoli e Ken non si trovano. Raga, Pioli è stato cacciato dall'Al Nassr. Cioè, Pioli è stato cacciato non dal Real Madrid, dall'Al Nassr è stato cacciato. Sic transit gloria mundi, dura il tempo che dura, però ti aspetti che dietro siano ordinati. Notizia bomba, no. Difese amateur, davvero molto amateur. Abbiamo già detto di Pongracic che guarda Addai mentre fa più o meno quello che vuole e non si è acceso una sigaretta perché ha smesso di fumare Addai. Però altrimenti l'avrebbe accesa e poi rientrare per calciare. Comunque sto Como che deve fare? Fa sul serio, che deve fare il Como? Il Como fa quello che riesce a fare, ha alternato prestazioni sempre molto prorompenti in avanti con dei momenti dietro di proprio leggerezza. È un po' il timbro di quel tipo di calcio cercato da quel tipo di allenatori lì, è un po' il timbro proprio generale. Va detto che Cesc Fabregas vive di un credito della stampa totale e definitivo. Posso dire un filo esagerato? Sì, anche secondo me, vediamo come finirà la stagione. Per essere meritato vuol dire andare in Europa col Como, questo è. Per raccogliere miliardari, speso 95 milioni di mercato di entrata, però intanto sai, non è facilissimo entrare. C'erano tante squadre, intanto a Firenze quella è una di quelle che fa l'Europa, per dire. Comunque nel secondo tempo la ribalta, c'era il simpaticissimo pubblico fiorentino che già sull'1-0 per la Fiorentina fischiava. Fischiava un po' tutti. Fischiavano soprattutto i Viola, cioè capito? Erano già così, giocavano così male che già li fischiavano sull'1-0 per la Fiorentina. Quando poi sul gol sul pareggio del Como si è sentito una bordata di fischi più che esultato. Vabbè, ma riconosciamo, un po' così. Riconosciamo. È un po' così, Firenze è un po' così. Un difesa po' amatoriale. Non aiuta, comunque, non aiuta. Difesa davvero amatoriale, beh, amatoriale della Fiorentina. Ti aspetti che siano brutti davanti, ma non ti aspetti che siano così brutti dietro. La classifica in questo momento piange perché hai preso 6 gnocchi in 4 partite e hai fatto solo 2 punti. Andiamo a due squadre che hanno di che lamentarsi, di che gioire, anche loro da mettere a posto. Due risultati diversi, due partite diverse. Abbiamo addirittura una conferenza stampa spumeggiante di Tudor, non per i motivi che ti potresti aspettare, perché al Bentegodi è successo un po' di casino e la Juve viene via con un solo punto. Un solo punto, di cui il protagonista è un ragazzo top 5, Gift Orban, quel ragazzo lì che segna dal dischetto per un rigore abbastanza generoso, questo in vero, concesso al Verona, ed è protagonista di una mancata espulsione su una stecca, stecca su Gatti, io lo capisco. Allora, però Gatti finge Gatti fa tutto quello si che... Si tiene la mano, sì, ma lo prende dietro. Ho capito, gliela da... Ah, vabbè, dopo no, lo prende dietro, avanti, lui sì, gli dà la botta dietro, lui si mette le mani negli occhi e va giù. Cioè, l'ha presa dietro la botta, L'ha presa, però l'ha presa nella nuca, non è che la faccia. Insomma, diciamo che non gli gira benissimo, ma non gli gira benissimo in un momento in cui poi mettici il nervoso, mettici la tensione, quello che vuoi, ma non è che abbia giocato a calcio così bene la Juve, contro il Verona. Allora, due parole sulla Juventus. Ho letto un po' di buone cose su di lei, poi produzione offensiva, niente male, perché parli male, lo butti via, alla fine quello che ti ha segnato di più è proprio Vlahovic. Quello che voleva andare quello via. Voleva andare via. Fa pure assist, se non mi sbaglio, ultimamente. Produce, produce, segna tanto, ma ne prende pure tante. Cioè, non è 4-0 il risultato della Juve, è tipo 4-4, 4-3, 5-4, vuol dire che segni tanto, sì, ma ne prendi veramente pure tante e anche male. Diciamo, l'anno scorso Motta aveva fatto forse più punti e aveva preso sicuramente meno gol con la Juve all'inizio. Lì fu proprio gestita proprio male la male quantità di punti che aveva Motta al momento dell'esonero era imbarazzante per la pochezza del gioco, sì, di però pallone all'inizio della stagione, ve lo ricordate, no? È lui che tira fuori giocatori a caso, Savona, Bangula, e tutti fanno gol. Cioè, mette a caso sulle veloci e faceva gol. Cioè, sembrava. Come hanno gestito male quella situazione incredibile. Comunque rimane il fatto che in questo momento ovviamente manca il Napoli, la Juve prima, quindi non si può dire di crisi. E quindi. No, che crisi? No, stanno. Cioè, condivide questo posto in top 5 con la storica rivale nerazzurra che vince una partita solo apparentemente facile. Boh, secondo me. Ci sta, che vinci 2-1 con questa, cioè non è che ci possiamo inventare. No, qua ci sta da dire una cosa di molto importante, perché Inter e Sassuolo di ieri stabilisce un record, parlo con il nostro regista, perché è stata eletta la partita con il più alto grado di bruttezza delle rispettive divise. Dopo dire che io sono fissato, però cazzo, cioè l'Inter che va in campo con una maglia tipo blu arancione che non c'entra nulla con i colori, a meno quando giochi a San Siro la home la devi indossare sempre, la seconda maglia della pistola, tu ridi, ma questo è. Poi dici, a peggiorare la situazione arriva un Sassuolo vestito un camouflage fosforescente con per mimetizzarsi nel banco degli evidenziatori. Ufficialmente è una maglietta verde con i bordini bianchi ispirate alla disco anni 70. Ma cosa? Allora sì. Disco stu. Cioè, quando il Sassuolo era probabilmente l'interregionale, non so cosa. Sì, seconda categoria. Il derby col Formigine. Mi ricordi lì, c'erano delle belle discoteche. Ma non si può permettere una partita del genere. Sì, è vero, sono d'accordo. Segnaliamo il gol di Ualino Khedira, che non serve se non ai rotocalchi, diciamo. Esatto. E segnaliamo che il gol che viene in un primo momento attribuito a Çalhanoğlu, poi diventa autogol a Carlos Augusto. Diventa autogol di Muaremovic, che aveva segnato nella porta giusta. Muaremovic ex Juve, se non mi sbaglio, ex Primavera Juve, sì, non mi posso sbagliare. Sì. Andiamo avanti, parliamo di due risultati rotondi e completi, il Milan e l'Atalanta, la fanno loro. Attenzione al Milan, che ovviamente allenato da Allegri è un po' quella che potrebbe dare più fastidio a Simone, diciamo, in questo campionato. Dai, non caccatemi il cazzo, il portiere dell'Udinese, cioè, se c'ero io in porta l'Udinese pareggiava 0-0. Ho capito, dai, dai, diciamo, Simone, dai, Simone, dai. Non prende mai tiri, dai. Non gol, tiri. Il Milan non prende tiri, c'ha un pullman davanti, hanno tre difensori che bussano come dei fabbri davanti, due butta fuori, più Modric e Modric che devono curare Modric, perché certo, giustamente ci vuole, ci vogliono due butta fuori per curare Modric, certo. L'oggetto misterioso è Stupinan, che si ricongiunge col discorso sui terzini che non terzinano, è quello che ti stavo dicendo. Speriamo, speriamo sia l'anno suo. L'ho preso in due fantacalcio. L'hai preso in due. Lo sapevo. Speriamo sia il suo anno. Lo sapevo. Ovviamente. L'attaccante col QI calcistico più impalpabile del calcio contemporaneo nei top 5 campionati europei, Jimenez. Giusto. Jimenez, e Pulisic, che porta a spasso tutti. Pulisic, che porta a spasso. Lo persona di estrema destra. Sì. Però... americani, bella prestazione, americani, persona di estrema destra, Pulisic. Invece Jimenez, allora, mi inizia a stare simpatico, perché veramente c'ha qualche centimetro sempre per arrivare al gol. Lo sbaglia di poco, però, cioè ne sta sbagliando tanti di poco. Di quei giocatori che ami per forza. Cioè, come inizia quasi ami perché simpatico. Non sei milanista. Sì, esatto, solo per quello. Non frega nulla. Però è un Milan che a me fa paura. No, nel va, senso che è un Milan che potrebbe, avendo solo quella competizione, non ha le coppe, quindi può lavorare su quello e può bloccare ogni movimento di tutti, cioè loro Allegri lì per tutta la settimana a guardare l'altra squadra, che la squadra che affronterà una alla volta, quindi con comodo, per capire come non fargli giocare. Non prendono tiri, e al Bologna ha fatto zero tiri. L'Udinese credo uno, forse, non so. E una grossa sedia in porta ha dato in là la prestazione in attacco dei ragazzi di Allegri, che dai, così, fanno cioè, due gol su tre sul palo tuo, su nemmeno tiri resistiti. Che cazzo stiamo a parlare? Dai, va bene, dai, non ti preoccupi, va bene, va bene. Velocemente, okay. Velocemente vince 3-0. Che Napoli vince 3-0. Vince 3-0 in trasferta anche l'Atalanta. Krstovic sulle mani a quell'altro. Samardžić, grande prestazione. Rientra in campo Zapata, si fa parare un rigore tirato veramente così, male, così, cioè, proprio veramente così. Lo parava... Carne secchia è un gran portiere. Sì, però non serviva carne secchia, esatto, a parare, esatto, quel rigore. Esatto, cioè, esatto. Forse non bastava la grossa sedia di cui parlavamo poc'anzi, però. Non dobbiamo esagerare. Andiamo a chiudere velocemente, perché poi ci siamo persi, abbiamo detto tante cose, ma il ragazzo copertina di questa top 5 sul tema dei terzini che non terzinano, c'è un terzino che terzina ed è Palestra, Primavera, oh. Atalanta, terzino destro, lo conosco, che era un bimbo proprio, che fa era un, bimbo. Un bellissimo assist per il piattone di Belotti, che farà doppietta, clamoroso, un Cagliari Corsaro che va a fare tre punti meritandoli a Lecce. Lecce sempre più inguaiato. Cagliari not bad, ma bravo, bravo Palestra. Bene, bene, questo è quanto. A questo punto, via, andiamo. Ci risentiamo tra un po'. Yes. Rientriamo in diretta qui a Caffè e Paglia. Abbiamo già in collegamento Alessandro Canella, che sta seguendo il corteo nel giorno dello sciopero generale per la Palestina. Alessandro, ci senti? Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, com'è la situazione? Abbiamo aggiornato con le informazioni che ci davi il numero, insomma, importante di persone che sta partecipando a questo sciopero generale. Dov'è in questo momento il corteo? Allora, dov'è il corteo è difficile da dire, perché la testa è da una parte e la coda è ancora da un'altra, nel senso che la testa in questo momento è lungo via Marconi, quasi in piazza Martiri, e la coda sta ancora girando da via Ugo Bassi, e quindi veramente tantissima gente come non se ne vedeva da tanto. Permettetemi di fare una piccola polemica, perché ho visto i titoli di altri quotidiani locali che parla di 10.000 persone, forse bisogna cambiare gli occhiali, perché qua ce ne sono almeno il triplo. Ah, ok, è già uscito, non avevo ancora controllato quello che appunto dicevano, insomma, si sì. Torna a questo gioco di conti fatti di un po' così. I numeri, la questura, a proposito di questura, c'è un elicottero che ci sorvola la testa oramai da mezz'ora prima della manifestazione e sta seguendo il corteo. C'è da dire che appunto, come note, diciamo così, di colore, però anche di umanità, una cosa che ho notato è che ci sono molti ragazzi giovani, anche di seconda generazione, certo, che hanno gli occhi lucidi, sono commossi da questa risposta solidale che Bologna sta dando nei confronti della Palestina, perché per quanto possa prevalere la gioia di vedere tanta gente in piazza, non dimentichiamoci che questo sciopero generale, questa manifestazione è per dire basta al genocidio che sta avvenendo a Gaza, dove ormai sono più di 70.000 le persone massacrate dall'esercito israeliano. Stiamo parlando di donne, bambini lasciati morire di fame, insomma tutte cose che purtroppo sappiamo e che vediamo quotidianamente. E veramente in piazza c'è di tutto, e anche, come dire, ben oltre la rappresentanza dei sindacati che hanno proclamato questo sciopero, che ricordiamo sono USB, SGB, CUB e ADL Cobas, ci sono tante persone che o sono iscritte a altri sindacati o non sono iscritte a sindacati, che hanno deciso di partecipare perché sentivano proprio questo dovere morale di essere in piazza con i propri corpi a dire basta a questo massacro. Bene, stavo appunto andando a recuperare le notizie dai media in giro. Ti sconsiglio di aprire. Imbarazzanti. Ti sconsiglio di aprire quella del resto del Carlino, perché. No, ma sì, vabbè, parlerà del traffico bloccato per il Cersaie, no, immagino. Peggio, peggio. Manifestazione, adesso te la leggo ormai, la leggiamo, che facciamo un po' di. Manifestazione per Bologna, per Gaza oggi a Bologna, migliaia in corteo, cassonetti incendiati, università bloccata, catene sul portone del liceo Copernico. Questo è il messaggio. Esatto. È proprio il titolo, eh? Questo è solo il titolo. Siamo messi così, direttore. Questo è quanto. Ma lo sappiamo che così. Mi meraviglio che non abbia parlato del traffico, perché adesso, vabbè, forse ci sono i cantieri e quindi non è più l'argomento che tira di più per il Carlino, perché di solito quando c'è una manifestazione non c'è una volta che dica le ragioni della protesta, ma parla sempre dei problemi della viabilità. Delirio, viabilità e incognita maltempo. No, beh, va avanti così il pezzo sul Carlino. Questo era solo il titolo, quindi okay. Dopo riprende i suoi classici. Tra l'altro dice c'è anche il Cersaie oggi, quindi in generale credo che anche quello blocchi il traffico in generale, no? Anche quando non c'erano i cantieri. E quindi quello sarà. Sì, a proposito di Cersaie, sarà interessante. Perché il corteo, come vi dicevo, è previsto che passi su via Stalingrado. Ora, via Stalingrado è una delle vie che affluiscono poi in zona fiera, e quindi sarà interessante capire cosa succederà quando arriverà là il corteo. Perché effettivamente rischia di esserci un bel intasamento. Sicuramente sì. Sicuro sarà interessante da vedere. Del resto la parola d'ordine sono blocchiamo tutto. Quindi bisogna bloccare. Quindi non è che l'hai già annunciato, e quindi in qualche modo appunto bisognerà farlo. Noi ti continueremo a seguire nelle prossime nel prossimo giro, diciamo, non dalla nostra trasmissione, però dalle altre. Se c'è qualcosa, però, se succede qualsiasi cosa, siamo a tua completa disposizione nel caso ci siano aggiornamenti. Grazie, buona giornata. Grande Alessandro, quindi è grande risposta di Bologna alla richiesta di sciopero generale, perché in Palestina sta succedendo veramente qualcosa di incredibile. Tra l'altro, tornando al mondo dello sport, in questo ping pong, essendo che siamo nella parte del calcio internazionale, è abbastanza scandaloso che Israele possa giocare con le sue squadre. La UEFA delibererà domani l'eventuale esclusione delle squadre israeliane. Pare che i numeri ci siano, e pare anche che in caso di esclusione dalla UEFA Europa League del Maccabi Tel Aviv verrà ripescata la Dinamo Kiev, perché non siamo seri neanche quando siamo seri. Non siamo seri neanche quando siamo così, seri. Io non ho, vabbè, non voglio vabbè, poi, adesso, aspettiamo. Anche se siamo nella parte del programma in cui si parla di calcio internazionale. Esatto, quindi insomma queste cose si possono anche. Dinamo Kiev è un termine che possiamo utilizzare. Ah, ma se dobbiamo utilizzare. Esatto. E appunto questa è la situazione. L'Italia ha già giocato contro Israele una partita incredibile. Cioè, la roba, a pensare com'è ridotta la pranzo nazionale. Al sacco, qualcuno ha detto pranzo al sacco. Com'è ridotta la nazionale italiana, veramente è allucinante. E, torniamo appunto velocemente, diamo un occhio a quello che è accaduto anche nei campionati esteri in questa settimana. Abbiamo un campionato a cui partire. Io partirei della Premier League perché solo perché devo andare a Birmingham. Ah, giusto, e volevo sapere giusto, quanto giusto. Coprirmi. Esatto. Ecco, l'Aston Villa in questo momento è una squadra con l'attacco più che spuntato. Ha fatto solamente 3 punti in 5 partite e ha segnato una sola rete. Però, questa è una grande novità rispetto alla squadra che abbiamo affrontato l'anno scorso. L'anno scorso era in supercorsa, invece stava giocando benissimo nel momento in cui l'abbiamo affrontato, poi è calata un po' nel corso della stagione. In questo momento addirittura sarebbe retrocessa, perché insieme al West Ham, quindi due colori, il Claret and Blue, non tira per niente. E poi c'è il Wolverhampton, che non so se ha ancora la maglia del Portogallo. Sì, immagino proprio di sì. E quindi merita di retrocedere. Però è a 0 punti per ora in questo momento, fallino di coda dopo 5 giornate. Ha comunque segnato più reti che la Aston Villa. Sì, quello sì. 3 gol fatti e 12 subiti. Quindi, insomma, che è successo in questo campionato? Allora, c'è stato, ho visto un po' di Arsenal Manchester City, comunque partita interessante, è finita 1-1 al 90 e sblisghesimo. Al 90 infinito Martinelli. Sì, ho che visto, fa un gran gol, gran pallonetto, fare un pallonetto a Donnarumma non è semplicissimo, è un armadio grossissimo, e nello stretto, diciamo così, ha fatto veramente un gran gol. Ha pareggiato all'ultimo secondo dopo un gol di Haaland. Sta un po' in forma, quest'anno. Ha detto anche Guardiola, ha detto è migliorato, dice che questo c'è margine di miglioramento. Attenzione, l'ho visto in forma. L'ho visto in forma il ragazzo. Poi continua Liverpool a dominare 2-1 nel derby con l'Everton, vince 2-1. Punteggio pieno. Rimane a punteggio pieno. I 500 milioni che hanno speso sul mercato. Parliamo alla dimensione di cosa stiamo parlando. Hanno speso. Lo potresti dire per quasi tutte. Non 500, in particolare. Però loro sono in testa, al secondo posto a 5 punti. C'è l'Arsenal e il Tottenham, l'accoppiata Arsenal-Tottenham e Bournemouth, che è un po' la sorpresa di questo inizio campionato. Bournemouth fa il puntarello anche in casa col Newcastle, c'è Justin Kluivert, ci sono delle suggestioni nel Bournemouth. Guarda, allora, gran progetto, anche loro basato sui giovani, non so se c'è qualche calcolo algoritmico dietro, penso di sì, è un bel progetto. Hanno già svezzato bene a Puisen, l'hanno rivenduto a 70 al Real. Insomma, l'ex Juve. Ex Juve. Esatto. Grande società che sta a vedere. C'è Jimenez con la J nel Bournemouth. Ah sì, quello che era al Milan quando c'erano Jimenez e Jimenez. C'erano tutte e due. Poi si sono lasciati e uno è andato a Bournemouth, l'altro invece guarda i legni delle porte avversarie. Ma United che cosa fa in tutto ha vinto questo? Ha vinto 2-1 contro il Chelsea, okay. Chelsea in inferiorità numerica per buona parte della partita, nobiltà decaduta, alla fine diventa un 10 contro 10, perché anche Casemiro ci teneva a prendere un doppio giallo, però basta quello, 2-1 è il risultato finale contro i campioni del mondo in carica. Champions. E comunque il Manchester era partito male, 11° per ora con 7 punti, questo per quanto riguarda lo United. Neanche che il City sia messo meglio, perché ha 7 punti, il pareggio con l'Arsenal lo porta a 7 punti, una partenza non positiva per Manchester. Il Chelsea, che era stato citato prima, è sesto in questo momento, davanti al Chelsea c'è il Crystal Palace, che l'anno scorso rossoblù vinsero la FA Cup, quindi dovevano essere in Europa League, ma poi perché c'erano due squadre, lo stesso presidente, non si poteva fare, gliel'hanno tolta. Questa è la situazione. Bene, cambiamo campionato, possiamo andare in Germania. Che è successo? Dove sarà il prossimo avversario del Bologna? Stiamo facendo l'ordine diretto del calendario del Bologna, perché sarà il Friburgo, no? A Bologna nella seconda giornata. Sì, il 2 ottobre. Al Friburgo ho mandato un paio di mail sottolineando il nome di Antonio Vergara. Ora, Antonio Vergara è effettivamente arrivato nella rosa del Napoli, ufficiale, fa proprio parte della rosa, e io non vedo l'ora che esploda per mandargli poi un'altra a Friburgo. Che cosa vi avevo detto, disgraziati? Krucken! L'avevo detto. Ci sarà, appunto, c'è ancora il Bayern Monaco, ovviamente in vetta a punteggio pieno. Sì, c'è questo problema di questo ragazzo che si è tolto la spada di Damocle che pendeva sulla sua testa, Harry Kane, che da quando ha iniziato questo campionato tra campionato e coppe varie ed eventuali, in 6 partite ha segnato 12 gol. Media 2 a partita. Io non lo so, ragazzi, deve stare un po' caro, deve bere dell'acqua, secondo me. Sì, però sono sempre numeri che io, per esempio, quando leggo di grandissimi bomber che stravincono tutto, fanno tonnellate di gol in Germania nel Bayern Monaco, tendo sempre a fare la tara. Sì, sì, però intanto. Beh, sì. No, no, non discute, però internazionali possiamo parlare. Però li ha sempre fatti, fatti sì, anche al Tottenham. Sì, però ha vinto meno che quello che si può vincere col Bayern. Però quest'anno sembra almeno il Borussia Dortmund volere starci dietro a questo Bayern. Non mi fido più di quelli là, sono matti matti. Matti matti, però sono a 10 punti. Sì, sì, sì, dopo 4 giornate, un pareggio e 3 vittorie, mi sembra che siano partiti bene. È partito molto bene il mio Colonia, che è adesso quarto. Anche realtà, se ha perso l'Ipsia, ha perso lo scontro diretto. A proposito di Colonia, ti ho pensato tanto perché ti ho già trovato il regalo di Natale. Ah, grandissimo! Te l'ho già trovato. C'ha a che fare con il Colonia. La cena, okay. Con una cena con un giocatore. Con un giocatore del Colonia. Mangerò Wüster insieme a un giocatore del Colonia. Ha sempre a che fare con il design, ricordo. Allora, segnaliamo che il San Paoli ha perso, ma è comunque messo molto bene in classifica e ci ha messo il tempo che ci voleva perché ha fatto uno striscione contro Netanyahu. Eh sì, perché loro gemellati con una squadra israeliana, l'Apoel. L'Apoel. Non avevano ancora preso posizione per non creare insomma dissapori con i gemellati. In realtà hanno creato lo striscione e i gemellati se la sono un po' presi. In effetti. Però, ragazzi, cioè. Però sono qualcosa. Gli americani direbbero too little, too late, però almeno hai fatto qualcosa. E già lo prendiamo come un segnale positivo di. Così, sinapsi che lavorano. Che lavorano. Sono esatto. Quello. L'Union Berlino è una squadra normale che vince e perde le partite come le vincono e le perdono le squadre normali. In questo caso la vince in modo rocambolesco perché ne fa 4 in 55 minuti a Francoforte sul campo dell'Eintracht e poi a momenti si fa riprendere. 4-3 finita? 4-3 esterno, pesantissimo. Bella partita. Intanto, quindi salutiamo il campionato tedesco, passiamo alla Liga dove mi sembra che insomma la fase di ambientamento di Xabi sia abbastanza buon passo, sta andando bene, tutte vittorie per il Real Madrid, sono arrivati alla 5ª giornata. Ieri gli ho dato un'occhiata veloce e in quell'occhiata veloce c'erano tipo 6 giocatori del Real che stavano assaltando l'area, quindi quello ti fa capire che Xabi sta lavorando Xabi, no, in effetti lavorando. Il Real sembra proprio già lui è sempre stato lì, l'abbiamo sempre detto anche tu che hai seguito era già scritto il percorso col Bayer Leverkusen dalla Lazio Sociedad 2 addirittura dalla seconda è vero. Comunque il Barcellona regge, diciamo anche altra squadra interessante in cui ha fatto gol Rashford, tutti i giocatori cacciati dal Manchester United in questo ultimo periodo stanno facendo grandi partite, pure Onana che è appena arrivato ha vinto Man of the Match e nella seconda partita ha fatto un assist. Un assist addirittura. Quindi insomma chi va via da là tendenzialmente si trova molto meglio, ecco, diciamo così. Ci sono delle sorprese però, i piani alti, così ve le elenco in ordine di classifica a casaccio, poi le andiamo un po' a raccontare. Villarreal, Espanyol, Elche e Betis arrivano al 6. Cioè alla sesta in classifica. Il Villarreal di Tejan Buchanan, mi stai dicendo, giusto? Grande, grande ragazzo, grande. Villarreal che vince 2-1 in casa contro l'Osasuña, che comunque ci aspettiamo un altro campionato di quelli là dall'Osasuña, che rimane in 10, poi va in vantaggio, poi nel secondo tempo si fa riprendere dai padroni di casa. Attenzione che però pare che gli dèi siano un po' distratti quest'anno. La società in enorme difficoltà in questo momento a 2 punti. Male, malissimo. 18esima sarebbe retrocessa, è vero che è appena iniziato il campionato, però neanche le altre stanno andando bene, anche l'Athletic Bilbao ha perso a Valencia 2-0. Ha preso 2 gnocchi a Valencia, sì. E quindi è in questo momento a 9 punti. Diciamo lontano dalla zona Champions, però ancora da giocare. L'altra sorpresa negativa è l'Atletico Madrid, che ha 6 punti in classifica, ovviamente pareggino a Mallorca in questa giornata con Julian Alvarez che sbaglia un rigore a inizio partita, incasinando il piano gara decisamente. Lo sai chi è che poi, cioè tu fai, se arrivi al 90, intorno al 90esimo e sei 1-0 sotto contro il Mallorca, sai che arriva Muricy. Lo sai, e infatti è arrivato. Che arriva con il suo tocco piratesco a ristabilire gli equilibri. Una bella che storia quella di Muriqi, però è veramente allucinante. Che storia. Personaggio, super personaggio. Là si deve trovare veramente da Dio. Cioè, secondo me si è proprio. Sei comunque a Maiorca. Lo vedo diciamo, bene. Aiuta. Secondo me è prima da quelle parti, da temperato, capito? Si sta bene. Poi c'è il mare vicino, quindi sei pirata. Stai bene, ecco, diciamo così. Sei tranquillo. Tranquillo. Invece è un po' a sorpresa anche il Girona. Che avevamo visto un paio d'anni fa volare all'interno del gruppo del City, esatto, una delle proprietà, molti proprietà, in questo momento a un punto evidentemente qualcosa non è andato nel mercato estivo, non l'ho seguito proprio in maniera precisa, però no, hanno fatto del casino. Hanno sminchiato un pochettino. Andiamo a vedere il campionato belga, il nostro super campionato. Dopo la Serie C. Adesso siamo passati alla Serie C. Belga, Royal Union Saint-Gilloise in vetta, in fuga, 20 punti. Loro sono già avanti, hanno giocato 8 partite. Miglior attacco, miglior difesa. Tutto. Però, grande sorpresa, il Saint-Truiden che è al secondo posto. Insomma un po' una sorpresa vederla così in alto nonostante la sconfitta di 2-0 contro il Club Brugge in questa giornata. Buone notizie per Simone invece perché il Mechelen è al terzo posto, pari al Club Brugge, insomma situazione positiva addirittura, molto bene, nella molto pool, bene. Potenziale spazio nella pool scudetto, pool scudetto che è per persone semplici, esatto, perché il posto in cui succedono le cose in Belgio è là sotto. È nel sottosopra che ci si diverte, che si fa un casino. E infatti alle standard che è ottavo, vince l'ultima, l'avevamo visto la settimana scorsa ai margini di questo girone in cui succedono le cose, e invece vince contro il Westerlo 2-0, una grande vittoria in trasferta, e appunto si piazza lì all'ottavo posto, che è il suo posto, che tra l'altro pari punti col sesto dell'Anderlecht, che però è già pur scudetto, sì. Ma a noi ci piace lascialo stare, la prossima settimana pare giro, così non c'è il rischio di andare sopra. Ha già vinto tanto. Allora, io però una roba vorrei condividere con voi, la mia perplessità sulla figura ascetica del Dender. Oh, Dender che avevo... È ancora lì il Dender. Scoperto l'anno scorso, che si è salvata all'ultimissima giornata. Perché il Beershot, il Beershot era il Beershot. E poi c'era il Dender, che gioca in un impianto da 6.000 posti. Ed è ancora lì, in questo momento è ultimo in classifica. È abbastanza ultimissimo. Due punti, insomma, non sta andando bene. 2 punti in 8 giornate. Buona media. E a questo punto abbiamo chiuso i campionati europei. C'è da parlare di Serie C. Serie B, Serie C. Anche tutto. Uno spizzico di Serie D. Perché ti dirò, ho dato un'occhiata ad un incontro incredibilmente di cartello in Serie D tra Milan Futuro e Chievo Verona. Senti che nomi nobili. Sì. Chievo Verona che si porta sul 2-0, ma la vince in Milan Futuro 3-2. C'è stato brio, c'è stato ritmo. Passiamo a Serie C. Noi abbiamo fatto cagare. Ecco, detto proprio, se vuoi un'analisi tecnico-tattica, quello. Stiamo parlando della Sammetese. Butta male perché abbiamo 5 punti, siamo in pieno della parte destra, diciamo, della classifica. Una vittoria, 2 sconfitte, tutte e due in casa, tutte e due da polli. Tutte e due, come dice il presidente, senza nemmeno subire così tanto il gioco avversario, ma proprio da polli, da gente che deve capire bene la categoria dove sta adesso. 4-2-3-1, mister, ha deciso in questo inizio campionato per cercare di utilizzare tanto bei giovani talenti che sono arrivati, soprattutto in quella zona lì, i tre dietro a Eusebi, che però Eusebi, che dei grandi nomi è l'unico che ti ha portato davvero qualcosa in questi anni, giocatore che sa come si fa la Serie C, capitano, esperto, segna ma sbaglia anche tanto, servirebbe un Leonardo della scorsa stagione che gli gioca accanto. E in teoria dovrebbe essere Iaiunese, un ragazzo che abbiamo preso quest'estate. Insomma, a me sembra che il mister stia cercando di lavorare per far crescere i ragazzi. Un po' rilento, magari. Sta andando un po' così male. Il problema è che vanno benissimo le avversarie storiche. Tra l'altro. Grossissimo problema. È un girone. l'abbiamo iniziato a conoscere quest'anno, sì, perché era presente con un sacco di derby, tanto derby storici. Ternana Perugia, cioè, oltre Ascoli San Benedetto. Noi andiamo martedì a Perugia. Ternana Perugia, c'è cioè Ravenna Forlì o Ravenna Rimini, se ancora Rimini è una se squadra, ce la fanno. Se rimarrà. A proposito di Ravenna, Ravenna che adesso dal DAB si può sentire Radio Città Fujiko attraverso il DAB, Ravenna che sta volando. C'è un Tengorang che fa paura. Volevo appunto chiedervi questo Tengorang. È uno che la sbatte la vita con un modo selvaggio proprio. Cioè, sei gol in 5 partite, mi confermi? Atleticamente dominante proprio. Sì, sì, proprio animale proprio che ti trae via. Segna lì e ti trascina proprio di prepotenza. Da sono un gran bel attaccante. Da dove arriva? Non saprei, sono appena arrivato. È in prestito anch'io. Dalla Cremonese. Attenzione. Una cartella di prestiti in 2 anni spaventosa, ragazzo. Sì, è stato molto impresso, però diciamo la base era, cioè, in realtà sta andando. È in prestito da quando aveva 2 anni. Cioè, dal 2015. Sta andando forte. È un cartellino che scotta quello. Da quando aveva 15 anni, perché ha 25 anni, quindi insomma dovrebbe essere nel prime. Potrebbe essere un nome interessante. Ravenna che è secondo a 12 punti insieme all'Arezzo. Chi sta sorprendendo tanto è il Casarano. Girone C, ragazzi, il girone C della Serie C è qualcosa tipo Guerre Stellari, una cosa del genere. Il bar di Guerre Stellari. È una cosa fenomenale. Loro neopromossi sono alla terza vittoria consecutiva. Ieri Marcori mi sembra che faccia un altro doppietto oppure apre le danze. Comunque, niente male. Quella squadra che però ieri mi ha riempito gli occhi e mi sta piangendo il cuore, perché lo devo dire, ma so quei disgraziati maledettissimi di Pescara che invece ieri mi hanno oggettivamente riempito gli occhi con una prestazione clamorosa contro l'Empoli. Vivarini in panchina, il Vivarini di Catanzaro, proprio lui, ok? È una squadra che oggettivamente ieri era spaventosa, incursione in area a tutta potenza, a tutta velocità. Voglio segnalare Oliveri, mi sembra che si chiami l'autore della doppietta, fa 2 gol e fio. Il primo è lo scaldabagno più scaldabagno che io abbia mai visto, cioè tipo un tiro di una violenza all'incrocio dei pali veramente inaudito, poi raddoppia con uno scavetto da sotto. Cioè, il mio Oscar della domenica va purtroppo a Pescara. Tra l'altro per gli amanti delle curiosità e delle statistiche, ce lo dice la pagina amica La Ragione di Stato, l'allenatore dell'Empoli al minuto 63 tira fuori un rosario per chiedere l'intervento dell'Altissimo. Da lì a 5 minuti il Pescara fa 4 gnocchi. Perché l'Altissimo comunque, cioè, è di Pescara. Sarebbe veramente clamoroso. E anche Dio con noi. Chi fa di Pescara? Com'era? Allora, mi sa che siamo arrivati alla pubblicità. Dopo, quando rientriamo, avremo anche la Formula 1. Ferrari scoppiettante. E rieccoci ancora in diretta. Per un busto questo. Così. È un busto, è tipo il muro dei campioni in Canada, che lo puoi dire anche in francese, le mur des champions o the walls of the champions, ma quando sei in Azerbaijan sicuramente non lo puoi dire in azero. In azero, sì. Abbiamo con noi il nostro Gozza in qualità di esperto di motori. Bentornato. Ben ritrovati, vabbè che vi ho visto anche la settimana scorsa, ma non avevamo nulla da dire rispetto degli eventi recenti sulla Formula 1, e quindi oggi siamo qui perché ieri c'è stato appunto il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku. Circuito cittadino che abbiamo imparato ad apprezzare, non solo a conoscere, anche ad apprezzare, perché all'inizio c'era tipo i tombini affioranti, adesso ho visto che penso che col PNRR abbiano rifatto delle ciclabili. Hai visto le ciclabili? Sì, ci sono le bike lane. Però verdi, non come a Bologna rosse. No, le hanno fatte verdi. Infatti vedevo sul circuito questo tratto, dico forse è anche ancora aperto, no? Durante la gara la gente poteva andare in bici sulla ciclabile, tanto bene o male ti stirano come nelle nostre ciclabili. Ma al di là di questo, veniamo al... Intanto ci serve da fare un po' di riassunti delle puntate precedenti, vabbè. Abbiamo iniziato un campionato con un dominio McLaren, no? Che l'abbiamo visto, una Ferrari deludente, una macchina completamente sbagliata, anche grazie alle correzioni non si è cambiato nulla, se non ogni tanto qualche sorpresa, qualche podio nei gradini più bassi e poco di più al momento. Baku poteva essere un'occasione, ad esempio Leclerc aveva fatto la pole nelle ultime 3 o 4 edizioni, quindi una gara abbastanza in teoria favorevole alla Ferrari, e entrambe le Ferrari comunque non hanno ottenuto grandi risultati, addirittura Leclerc è andato a muro nella, Hamilton non è riuscito ad arrivare alla terza sessione delle qualifiche, quindi la situazione subito si è mostrata abbastanza grigia. La sorpresa è una sorpresa. Abbiamo qui un personaggio che è un marziano. Che non ci sorprende che sia un marziano, no, e che sia lì davanti. No, anche perché abbiamo visto che Max Verstappen, a parte che stavo guardando un po' i primi tre delle varie gare, dalla prima alle ultime, sì, ogni tanto Verstappen sul podio ci andava, secondo, terzo gradino, poi ha fatto un secondo posto nel Gran Premio di casa, perché quando si parla del GP d'Olanda, apre una breve parentesi, peccato che l'anno prossimo Zandvoort sia l'ultimo anno, non so perché, Zandvoort curiosa, sì, oltretutto però Zandvoort è stata completamente rifatta ed era rientrata nel periodo Covid, no? Chiamiamolo così, dove una serie di, come Imola del resto, era rientrata in quel periodo lì, però Zandvoort con le sue paraboliche che c'ha delle, cioè è un circuito che a me piace, e dopodiché si vede che non ci sono interessi economici più di tanto, quindi l'anno prossimo sarà l'ultima. Chiusa la parentesi, lì il nostro Verstappen è arrivato secondo. Ma quello che abbiamo visto a Monza, che adesso al di là del fatto che comunque anche la Red Bull ha portato delle migliorie, però poi alla fine si fanno sempre le misure con il secondo pilota Red Bull, che è il giapponese Yuki Tsunoda, che l'anno prossimo potrebbe finire sulla Toro Rosso, cioè quell'altra, quella di Faenza, però noi abbiamo visto praticamente un Verstappen che a Monza ha detto mi limate l'ala posteriore, cioè praticamente ha dettato ai meccanici una modifica sull'ala posteriore, che era già alquanto carica, nel senso stiamo parlando di differenza di impostazioni, perché ci sono dei circuiti veloci come Monza e dei circuiti più lenti, e quindi l'ala e anche l'alettone anteriore viene sempre cambiato e adeguato alle situazioni. Ecco, lui ha fatto fare una modifica ulteriore, cioè una limatura nella parte dell'ala posteriore, e l'ha chiesto Verstappen, cioè non è che c'era l'ingegnere che ha detto, lui stesso. Una macchina che in teoria Tsunoda l'ha provata con quell'ala lì, ma è inguidabile, no? Dice Tsunoda. Verstappen invece lui guida sulle uova, cioè praticamente abbiamo delle monoposto che hanno delle potenzialità, McLaren, dei piloti che hanno più potenzialità della monoposto, perché questo è alla fine come la vedi te, non lo so, perché... Parliamo di Verstappen che è in pallissima, che evidentemente su i circuiti con meno carico aerodinamico accorcia la differenza in prestazione pura tra la sua monoposto e la McLaren, che è la macchina migliore del mondiale, teoria, finora, sì. E in Azerbaijan, sì, circuito cittadino, ma col rettilineo più lungo del mondiale, l'idea di scaricare l'ala per avere ancora più velocità di punta sì, a scapito e poi non ha fatto un errore, cioè, fa un weekend da cannibale come ci ha abituato, cioè, per dire, noi abbiamo visto Azerbaijan, Baku, prove libere, gente che si sbatte contro il muro, le qualifiche, 6 bandiere rosse mi sembra, che è un record, 6 bandiere rosse per gente che sbatteva contro i muri. La gara è stata più ordinata di quanto si è stato solo Piastri, che un ritiro, e che ritiro, il leader del mondiale Oscar Piastri, prima canna la partenza, jump start totale, e quindi deve rifare tutta la procedura dal, no? Primo giro sa già che avrà una penalità, non si sa di che tipo, di solito è su 5 secondi perché gliel'ha andata, poi però non fa in tempo a scontarla, perché si schianta spontaneamente e si ritira dalla contesa subito. E il primo match point possibile per il mondiale lo canna così. Lo canna così e Norris non ne ha approfittato più di tanto. E quindi così è arrivato ottavo, non mi ricordo adesso. Norris arriva settimo davanti alle Ferrari. Sì. E quindi non è approfittato della situazione, visto che al Gran Premio precedente Norris era uscito, non ha portato a casa zero punti. E Norris continua a essere da tutti considerato il pilota di punta, no, della McLaren, nonostante che in testa alla classifica ci sia il suo compagno. Quindi anche lì si decidessero in McLaren su chi puntare, ma lì fanno un gioco di squadra dove tutti praticamente ubbidiscono. Questo non è detto che però funzioni, voglio dire, ci vuole anche un po' di libertà del pilota nell'interpretare e nel fare le cose, non che deve ubbidire ciecamente e basta. Anche perché in questo momento la Mercedes è davanti di 4 punti alla Ferrari nel Mondiale Costruttori. E questo è il sorpasso avvenuto in Azerbaijan. Sì, novità. Ma la McLaren li ha già più che doppiati. Ne ha 623 contro 290 della Mercedes che insegue. In teoria ieri poteva essere la giornata in cui la McLaren con anticipo avrebbe vinto il campionato costruttori. Non è andata bene, visto quello che abbiamo raccontato. E quindi i punti non sono sufficienti, ma noi possiamo dire è difficile beccarli, no? Cioè li puoi tallonare, ma a distanza, a molta distanza, abbondante. Oggi, distanza, diciamo, la gara è per il secondo terzo posto dei costruttori, mentre invece a livello di campionato piloti la situazione è molto interessante, perché marca virgola Oscar Piastri rimane fermo a 324, prende qualche punticino, i pochi punti del settimo posto Norris, Lando Norris, 299 e 25 punti di distanza, 25 punti contati, e dietro c'è Max Verstappen che ne ha 255, è a meno 69, che sono tanti punti. Ma se fa così tutti i prossimi Gran Premi ne mancano ancora un bel po', sì. Infatti lui adesso ci sta puntando al titolo piloti. Non può fare altrimenti, e c'è da sperare, se fossimo in casa Red Bull, che Tsunoda faccia il secondo pilota. Lo ha fatto bene in questa gara, in questa gara, un sesto posto, ma che toglie punti agli inseguitori. Pare che siano stati portati anche dei miglioramenti alla macchina, quindi lo stesso Tsunoda ne ha giovato. Anche lui non ha fatto un errore, mi sembra, adesso non ricordo bene. Cioè, comunque questo di Baku è un circuito complicato. Circuito vero, eh? Sì. Perché è molto veloce, ma delle parti super tecniche, molto strette, non ha mai vie di fuga. Curve a 90 gradi, ti si inchioda appena una gomma, vai dritto. Cioè, abbiamo visto dei dritti anche causati dal fatto che il pilota, toccando il freno, ha inchiodato una gomma e praticamente la macchina non è più governabile. C'era anche una pioggerella, c'erano delle condizioni d'asfalto di un certo tipo, consumo delle gomme zero, in teoria potevano fare la gara senza cambiare le gomme di qualsiasi tipo, mi sembra di aver capito, è quello che ho percepito io. Quindi anche lì delle condizioni particolari, quindi è un po' come guidare sulle uova. E io devo dire che Verstappen, devo dire, è un vero pilota, a parte che ha la mania, perché lui quando la domenica non corre la Formula 1, adesso va a correre nell'Urburin con le macchine di quelle, le auto normali, chiamiamo. Sì. Gran Turismo. Potentissime, un po' come quella dei giudici di gara, no? Della safety car. Però lui e sembra che lo faccia anche senza particolari interessi economici, perché mentre altri piloti lo fa perché è matto, invece di fare il simulatore va a fare sì, infatti ho sentito dire anch'io che è matto, però bisogna essere anche matti per essere dei campioni, no? Se tu sei nel tuo periodo di vita, che sai che poi prima o poi finisce, che sei in palla e che c'hai la volontà e la mania anche di guidare delle auto, e sono anche i momenti migliori. L'abbiamo visto anche i tempi di Valentino Rossi, quando lasciava la MotoGP, correva con i muletti, quelli per ha provato anche il rally. Sì, ma anche lui era uno, no, che era abbastanza maniaco del motore, possiamo dirla così. Beh, visto quando, che in Romagna dicono così, no? Certo, quando sei veramente appassionato di quello che fai, è una roba che immagino l'adrenalina adesso. Io sì, però ho preso la patente a 39 anni, quindi non sono quello che può raccontare questa cosa. Però immagino che l'adrenalina della velocità sia comunque una cosa che quando ce l'hai dentro e la vivi bene, come quello che può fare un pilota di Formula 1, credo che insomma, ti manchi quando non c'è. Sì, sì, quindi chapeau per Verstappen. Non sarà simpatico a tutti, no? Però è uno che è una risorsa in più. Cioè, tu puoi in Red Bull cambiare il direttore di gara, di squadra, insomma, il progettista. Cioè, c'è lui. Parliamo di uno che ha 299 a 255 punti nel mondiale sui 272 della scuderia. Esatto, praticamente. Cioè lui copre il 90% dei punti nel mondiale, certo, in Formula 1. Certo, del perché l'altro pilota anche l'anno scorso con Perez, il povero Perez, che non ce la faceva. Quindi abbiamo anche sentito il come si chiama, quello della Mercedes, il team manager, la settimana scorsa, dire che commentando la vittoria di Verstappen a Monza ha detto: gli altri piloti sembrano degli stupidi, anche compresi i suoi, sì. Cioè non stiamo parlando, cioè a vederla così, cioè rispetto alla macchina che ha, fa limare l'alettone, la macchina in teoria non è competitiva e vince, e oltretutto fa una serie di record che a Monza non si potranno al momento più battere, della velocità, il giro più veloce, perché il prossimo anno le monoposto saranno più lente, si dice, non so, poi si vedrà, l'ennesimo anno di transizione, e la media più alta in assoluto di velocità in una gara. Cioè lui ha porta tutte le volte, certo, porta a casa un sacco di condizioni, quindi eh sì questo è da dire, è veramente di livello altissimo il buon Verstappen, una spanna soprattutto. Parliamo anche degli altri, perché fa un secondo e quarto la Mercedes con Russell a podio e appena giù dal podio Antonelli, in mezzo un clamoroso Carlos Sainz Jr. In un campionato in cui, sì, Albon andava quasi sempre più forte di lui, sì. Albon pilota vero, comunque, sì, diciamolo, e gli giravano sempre storte, ce n'era sempre una, riesce invece a capitalizzare. Finché non gliel'ha tolta, aveva la pole, aveva Sainz nel sabato, no? Quindi diciamo che è stata una grande giornata anche per lui, e giustamente hai fatto bene, va celebrato, perché se anche, facciamo delle comparazioni, abbiamo preso Hamilton, no? Secondo me, io lo avevo anche già detto, Sainz era più utile, non dico migliore, perché Hamilton, anche lì abbiamo sentito delle esternazioni, no? Qual è il problema Hamilton, che devono cambiare pilota perché io non sono adeguato? Nell'intervista ha dichiarato anche questo Hamilton. E poi è anche vero, ieri polemiche perché avrebbe dovuto ridare il posto, la posizione a Leclerc, che l'ha fatto passare avanti perché lui non ce la faceva ad attaccare gli altri. Ma voglio dire, un 7 volte campione del mondo, cioè cosa lo chiamiamo, per spazzare per terra? No, è quasi sfidente. Cioè, anche lui stesso ha una sorta di orgoglio, no? Non so cosa ne pensi. Se gli ordini di scuderia devo far passare il ragazzino, no? Cioè. È anche una spesa il contratto di Hamilton, inutile per fare quel lavoro lì. Esatto. Quindi comunque non è, cioè, stato il prossimo contratto degli diciamo è molto più economico. Sainz costava meno. Sì, Sainz costava meno, e secondo me ne aveva di più. Poi non lo so, la macchina di quest'anno, perché sembra che sia un disastro, cioè, e si lamentano veramente tanto, quindi vuol dire che insomma, qualche problema reale, cioè non credo sia solo. Comunque gli eroi di ieri sono sicuramente Sainz e poi Verstappen, che è cioè, non ci sono aggettivi gara superlativo perfetta, no. Ma anche lui, per come si impegna, per come vive la sua passione, uno dice è un matto, sì, però questa matisia ti fa non è Patrese, no, che era matto, ma cioè, stai parlando della storia della Formula 1, ma che mette diciamo tutta la sua esperienza, la mette a disposizione della sua professione e della scuderia alla fine. Prossimo Gran Premio Singapore, l'anno scorso vinse Norris, terzo Piastri, arrivò secondo Max Verstappen. Vedremo. Tracciato molto diverso da quello di Baku, molto diverso, cittadino anche quello, però non così veloce, è un altro tipo di approccio alla sì, gara. Poi anche lì dipende dalle temperature, se le temperature sono più alte sembra che sia più avvantaggiata la McLaren, però vediamo, perché questa Red Bull, come ho detto prima, ha avuto, penso proprio a Baku, degli aggiornamenti. Il fondo è stato cambiato, ci sono state delle cose, mentre la Ferrari ha cambiato le sospensioni posteriori che poi consumavano il fondo e quindi veniva squalificata, e qui invece sembra che gli aggiornamenti stiano funzionando e diciamo una Red Bull che nel corso dell'anno e anche dell'anno scorso dei sconvolgimenti al suo interno, parlo di team principal bla bla bla, cioè di quello che progettava, che era, cioè sono stati tutti cambiati, quindi non si dica che non sia, cioè non è nelle, in teoria nelle migliori condizioni. Esatto. Allora, a Singapore ci sono 4 zone di RS. Cioè, pur di rendere possibili i sorpassi in un posto dove comunque la scienza non sì. può spiegare tutto, ci sono 4 zone per aprire il DRS. E comunque ci sono ancora 7 Gran Premi e Verstappen può puntare al titolo. Sarebbe una grande sorpresa. Siamo in chiusura, ormai manca poco prima di lasciare lo spazio alle informazioni di Popolare Network. Arriva un messaggio che ci fa piacere raccontare, è una foto difficile da insomma raccontare, però anche a Rimini la manifestazione sta andando molto bene, abbiamo delle foto giunte qui al 333 180 94 94 che lo dimostrano, no? Prima abbiamo sentito Alessandro Carella che seguiva il corteo di Bologna invece. E purtroppo abbiamo pochissimo tempo per parlare di basket. Veramente praticamente non ne abbiamo. È un peccato perché la Fortitudo ha perso. Sì, a Roseto, tra l'altro, dai nostri amici storici. Ex, poi ci siamo incasinati. Si è fermato, il gemellaggio ho scoperto. Non lo sapevo, avevo perso questo ultimo aggiornamento. Perde gli Abruzzi. A Roseto e gli Abruzzi, esattamente. E, si perde la prima giornata di A2, la 1 non è ancora iniziata. Quindi... Certo che sentiamo così, è lunghissima. Vabbè, è già lunghissima di suo, sono 20 le squadre. Anche quest'anno, diciamo, la formula è la stessa dell'anno scorso, con una vincente che va diretta in A1 e il playoff che le giocano praticamente tutte le altre, all'infinito dopo appunto 19 più 19 partite di regular season, quindi ovviamente il campionato è ancora molto lungo. Ci sono stati i mondiali di atletica e devo dire che l'Italia ha fatto un'ottima figura nonostante alcuni nomi, diciamo così, i grossi hanno steccato i grossi, ma 7 medaglie per un mondiale di atletica leggera, dopo i mondiali di nuoto, insomma, praticamente gli italiani stanno andando benissimo dappertutto tranne che nel calcio. Ecco, diciamo questa cosa, è ora che finisce questa cosa. Okay. Smettete di fare gli altri sono sport. Sono contento, tutto bellissimo, pallavolo. No, ecco, magari la pallavolo anche no. Quello che bello vedere l'atletica, bello vedere le minoranze sportive, chiamiamole così, che sono ormai 2-3 anni che insomma fanno la voce, però anche basta. A me mi serve un pallo a certi livelli. Però record di medaglie nell'atletica ever. 7 medaglie. Guarda, sono contento, ok? Sono contento. Però vorrei andare al prossimo mondiale e chiedere troppo. Ma se ti dico che l'unico oro l'ha vinto un ventenne nel salto in lungo, vuol dire che in proiezione, secondo me, questo trend. C'ho diciamo, piacere, c'ho bellissimo. Tra l'altro, tutto bellissimo. Giocava a calcio da bimbo, questo, eh? E ha lasciato il calcio per andare a vincere dei mondiali di salti lunghi in altre discipline. Capito? Senza pallone. Invece che portarci ai mondiali, lui ha scelto di andare da solo ai mondiali e vincerli. Questa è colpa del genitore, perché vede che a pallone uno si può pure fa male, invece l'atletica no, vuoi da solo, capito? Non ti danno le botte. Dai, basta, basta anche così, ci vuole che il calcio riprenda il suo ruolo dominante. Questo è un appello che possiamo fare in questa ultima parte. In effetti la NFL non è ancora iniziata. Sì, invece sì. Ah, è iniziata già. Ecco, invece c'è Kansas che era sotto 2-0, ha vinto contro New York, ma solo perché New York ha come quarterback quel rottame di Russell Wilson, altrimenti Kansas di Patrick Mahomes era sotto 3-0, invece è 2-1. Ci sono i Bills che hanno stracciato tipo qualche record riferito al numero di punti e azioni fatte nelle prime tre, sai, gli americani delle statistiche, prime tre partite. Bills on fire. Bene, la prossima settimana avremo tempo per seguire anche i Buffalo Bills del nostro Fio. A questo punto vi lasciamo un po' di pubblicità e dopo l'informazione di Popolare Net. Ciao. Ciao! State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM.